bordo ora rispondono i gradesi con una canzone nata sulle onde. Dormi, bel figio. È una ninna nanna nella parlata lagunare che, se ritiene l'armonia della parlata veneziana, si colora di voci proprie e di proprie cadenze. Frattanto, il vino generoso, maturato nella bonifica trasformata in vigneto dal sudore friulano, allieta le compagnie che aspettano l'alba. Un'alba di gioia che vede ogni anno, a chiusura della stagione Drio Pasqua, un paese in festa, fiero della sua origine adriatica e geloso del culto divino, come rileva la relazione di un provveditore al Veneto Senato. Mattino del 15 giugno. La processione recante le reliquie dei santi muove dalla parrocchiale, attraversa il paese e scende ordinatamente nelle batele appaiate e saldamente legate con canapi. Mobile ponte su cui sacerdoti, autorità, confratelli, stendardi, gonfaloni, bandisti, popolo, quante mamme coi bimbi in braccio, raggiungeranno in breve la chiesetta a guardia del cimitero, dedicata anch'essa a San Vito. In testa, in due barche nere, i rematori della classe di leva, giovani ventenni marinai nel sangue, a conferma che la forza e la fede dei padri rivivono nella prestanza dei figli. Sul molo, mentre la processione s'allontana litaniando, accompagnata da una teoria di fedeli lungo l'argine, un canto saluta la Vergine del Mare. Sono vecchiette cui incombe la cura del fuoco domestico, sono veterani della pesca, paghi di piegare le ginocchia al passaggio delle reliquie sante. Finalmente il ponte dei vivi si riversa in mezzo alle tombe dei morti, fresche di fiori come il 2 novembre, e invade la piccola chiesa sopravvissuta alle mareggiate e alle invasioni. Le parole s'abbassano di tono, i pensieri si innalzano al cielo, le passioni si placano. Giorno di perdono, contemplato negli antichi statuti di Marano. In questo giorno i giudici di pace componevano i dissidi nel nome dei santi, avvicinando le destre, restituendo ai cuori la serenità dell'amore. Mistico suggello, le campane che da tempo immemorabile accolgono la processione che rientra nel porto. Così si infiora di speranza quel mare che non basta alla vita di 2000 maranesi, ma che essi non possono, non vogliono disertare. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Pescatori di Marano, 28ª trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora, musiche popolari,